Europa 24. Buongiorno da Sergio Nava, bentrovati a questo appuntamento con Europa 24. Oggi ci occupiamo delle sfide che attendono l'Unione Europea nel prossimo semestre a guida lussemburghese. In primo piano l'attuazione del rapporto dei 5 presidenti sul futuro dell'Unione per ristrutturare, se così possiamo dire, l'Europa stessa. Un'Europa scossa da più crisi nelle ultime settimane. In un anno turbolento per il progetto continentale, cosa possiamo aspettarci dai prossimi 5 mesi? Quali le priorità? Lo abbiamo chiesto a Marco Incerti, analista politico del Center for European Policy Studies a Bruxelles. La presidenza lussemburghese, come tutte le presidenze da qualche anno a questa parte, non è una presidenza a sé stante, ma fa parte, si inserisce appunto in un trio che coinvolgeva anche l'Italia. Le priorità appunto poi sono comunque l'agenda europea che continua sempre a svilupparsi in una certa direzione, in particolare appunto la questione della migrazione che è riesplosa tragicamente con i naufragi nel Mediterraneo di persone che cercavano di raggiungere il continente e che appunto anche il primo ministro Renzi è riuscito a portare all'attenzione dei suoi colleghi. Un tema che poi alla fine farà da sfondo al di là dell'immigrazione, poi la presidenza lussemburghese si definisce come un'unione per i cittadini e speriamo che sia veramente un'unione, vada sempre più incontro anche alla comprensione dei suoi cittadini. Ci sono ovviamente anche gli investimenti, la crescita, l'impiego, dimensione sociale, eccetera, però resta una questione di fondo che è quella del rapporto dei 5 presidenti, che è un rapporto che in realtà intende rifondare l'Europa. Allora, cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi mesi? E nel frattempo, Marco, ti chiedo anche di spiegare un po' a chi ci ascolta perché questo rapporto è importante. Il rapporto è sicuramente importante, anche se piuttosto che rifondare l'Europa, lo scopo del rapporto è quello di rinforzarne la struttura e migliorarne la struttura, quindi è più un restauro, diciamo, con aggiunta di qualche nuovo elemento architettonico piuttosto che una completa rifondazione. È importante soprattutto perché si inserisce appunto nel quadro di questa prospettiva di una futura Europa politica che i 5 presidenti sottintendono, comunque resta sul tavolo, e però diciamo questo rapporto si concentra su passi concreti che verranno intrapresi fra qui e il 2025, quindi nella prossima decade, per mettere ulteriori paletti per diciamo costruire una passerella verso questa Europa politica. Nella specie la parte più importante, ovviamente a seguito della crisi che peraltro non è ancora terminata, è la questione della governance economica dell'Unione Europea e della zona euro in particolare. Quindi sappiamo che ci sono state una serie di misure adottate nell'emergenza appunto della crisi, nel periodi più bui, a mercati chiusi e con rischi di scioglimento delle piazze finanziarie il lunedì mattina alla riapertura. Adesso queste diciamo nuove misure che sono state adottate devono essere inserite in un quadro più coerente e tra l'altro il rapporto dei 5 presidenti si concentra anche sul come rendere questi nuovi strumenti di cui dispone la zona euro più democratici e più accountable, come si dice in inglese, quindi più appunto rispondenti ai desideri e alle indicazioni dei cittadini. Stiamo andando verso due Europe, una più approfondita, integrata, sempre più sovranazionale, e un'altra più alla carta, se vogliamo, dove chi si trova in questa seconda fascia alla fine collabora, coopera solo in alcuni settori. Sì, diciamo già uno sviluppo di questo tipo esiste, ovviamente ripeto, la zona euro è di fatto il nucleo duro di già della Unione Europea. Molti ritengono, e i 5 presidenti appunto vi fanno allusione, che ovviamente questa zona euro debba essere il centro, il fulcro dello sviluppo della nuova Unione Europea politica. Ed è tutto per questa puntata di Europa 24. Un saluto, buon pomeriggio da Sergio Nava. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.